Radio 24 Reportage. Migranti, la nuova linea di Minniti, di Valentina Furlanetto. Como, ultima frontiera a nord dell'Italia. Lungo la ferrovia in via Regina una cinquantina di container sotto la neve di gennaio. Dal centro governativo per migranti, gestito da Caritas e Croce Rossa, entrano ed escono dei ragazzi. My name is Ibrahim, I'm 21, West Africa. Il mio nome è Iwine, ho 21 anni, vengo dall'Africa occidentale, dice un ragazzo che incontriamo lungo la strada. Con mio fratello siamo partiti dalla Libia in una barca. È stato un viaggio fortunato, nessun naufragio. Sono arrivato in Sicilia, poi qui a Como. Non mi trovo male, me la cavo. A Como, confine nord dell'Italia, dove quest'estate c'era stata un'emergenza per il centro profughi a cielo aperto spontaneo che si era creato nella stazione ferroviaria della città, in questo momento non è il centro migranti il problema, secondo il responsabile Caritas Roberto Bernasconi, quanto le vie della città. C'è tutta una serie di personaggi che i migranti lo sanno, perché capiamo bene che loro cercano un po' tutte i corridoi per poter passare, no? E quindi si sono create delle situazioni per cui c'è spazio per i passatori, che con 250 euro poi li portano su nei paesi del nord Europa. Situazione che può diventare esplosiva. Come trovano i soldi i migranti? Alcuni se li fanno arrivare attraverso le agenzie internazionali dei paesi di origine, altri probabilmente si vendono in qualche modo. Illegalità, droga, prostituzione, eccetera. E capisce che però c'è tutto un mondo dell'illegale che è lì pronto a saper cogliere i frutti di questa roba qui. E io dico che tanti di quelle persone che cercano di aiutare in modo illegale, magari col cuore, no? E queste persone, questi migranti, non si rendono conto del danno che compiono invece grosso anche nei confronti dei migranti, perché poi quando arrivano su in Germania vengono rimandati indietro prima o poi. Capisce perché c'è in giro gente di notte nella nostra città, che tutti sanno, ma nessuno si vuol mettere in azione seriamente per bloccare una storia di questo tipo qui. Da dove li farebbero passare? Da quali posti di frontiera? Ci sono dei valichi minori, il passaggio non è solo Chiasso o il Gaggiolo o Pizzarone, ci sono tanti valichi pedonali che si possono usare, ecco. La situazione peggiore in questo momento è questa, ed è per questo che c'è in giro tanta gente di notte. Da Como a Bresso, sempre in Lombardia, dove sorge l'hub governativo gestito dalla Croce Rossa. Ospita 450 migranti in attesa di documenti. Dovrebbero starci pochi mesi. In realtà i tempi sono lunghissimi. Nella media italiana, è chiaro, 6-12 mesi. Ha atteso un anno e mezzo Bruno, che ha 30 anni e viene dal Togo. Dopo la morte di mio padre aveva un problema nella mia famiglia. Così ho deciso di lasciare il mio paese per evitare i problemi. Ma sono rimasto in Algeria e Libia, ma quando sono lì in Libia ogni volta c'è problemi. Così ho deciso di lasciare Libia per arrivare in Italia. Che tipo di problemi avevi in Libia? Tantissimi problemi. La guerra, si dice, non lo so, massacro contro i cristiani, tantissimi problemi. Non c'è la libertà. E tu sei di religione cristiana? Sì, sono cristiano. Ogni giorno paura, tu non posso uscire fuori per comprare qualcosa, non c'è la libertà. Quando sei stato in Libia? In che periodo? Da ottobre 2012 a giugno 2015, ho fatto 3 anni lì. Io ho livello università, posso dire così, sono professore di francese lì. Sono arrivato in Italia per balcone, non lo so. Sì, ho pagato 800 euro per arrivare qua. Da Bresso a Torino, dove dovrebbe essere ampliato il CIE esistente, che per ora ospita 90 migranti. Con l'anno nuovo, infatti, c'è stato un nuovo approccio all'immigrazione targato Marco Minniti e non più Alfano, caratterizzato dal pugno di ferro per chi è irregolare e da un'accoglienza più diffusa nel territorio di chi è appena arrivato in attesa di documenti. Il ministro ha annunciato che aprirà un CIE, un centro di identificazione ed espulsione, in ogni regione. Ha promesso che però questi centri, che furono la vergogna d'Italia nel 2007, quando la commissione di Staffan de Mistura certificò che erano luoghi indegni e di degrado, saranno diversi. Il 19 gennaio darà i particolari di questo suo progetto. Intanto, con poche eccezioni, ha raccolto soltanto opinioni contrarie, dal presidente dell'ANCI, De Caro, al governatore della Toscana, Rossi. Eppure, il sistema com'è attualmente non funziona. Lo dimostra anche il passaggio dell'attentatore del mercatino di Natale a Berlino, Amri, passato per il CIE di Caltanissetta e poi sparito. Al momento i CIE attivi sono quello di Roma, quello di Torino e quello di Bari. I migranti presenti sono 286. Il Viminale spera in pochi mesi di raddoppiare l'attuale capienza e già si parla di 60 migranti in più per il CIE di Via Brunelleschi a Torino. L'assessore al welfare Sonia Schellino, intervistata da Filomena Greco. Concentrare molte persone in un solo luogo si è dimostrato non opportuno, non è una scelta auspicabile. La cosa migliore è una suddivisione per piccoli gruppi che consenta di fare dei progetti realistici. I centri grandi, questi strumenti che sono stati usati come il CIE, hanno dimostrato di avere dei grossi limiti e continuiamo ad auspicarne il superamento. A che punto è la gestione di una realtà complessa come quella dell'ex Moi, occupata da centinaia di migranti? Ma anche qui stiamo cercando di pensare a delle soluzioni per piccoli gruppi. Insieme alla Compagnia di San Paolo, alla Pastorale Migranti e soprattutto in questa prima fase insieme alla Prefettura, stiamo pensando di fare una specie di portfolio di possibilità che potranno essere offerte a queste persone, sempre che comportano l'accoglienza in piccoli gruppi. Gruppi diffusi sul territorio della regione, non necessariamente tutti a Torino, dove ci siano possibilità di lavoro e di accoglienza per gruppi piccoli all'interno sempre di un sistema di cooperative che aiutino un po' lo stesso modello dello SPRAR, ma è una sorta di terza accoglienza che stiamo cercando di inventare. Ma a Torino, appunto, la vera polveriera a rischio esplosione è quella dell'ex villaggio olimpico, attualmente occupato abusivamente da migliaia di famiglie. E non è la sola polveriera in Italia. La giungla di Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, ad esempio, e poi ancora il CARA di Mineo, in Sicilia, che il procuratore di Caltagirone, Verzera, ha già definito ingestibile e dove il controllo sociale è subappaltato a boss etnici che spadroneggiano. Al CARA di Borgo Mezzarone, provincia di Foggia, dove a dicembre è stata arsa viva una ragazza nigeriana. E ancora a Conetta, in provincia di Venezia, dove dopo la morte di Sandrino, una giovane ivoriana, il 3 di gennaio, è scoppiata una rivolta. Il rischio è quello infatti di guardare il dito e non vedere la luna, dove il dito sta per i CIE, centri di identificazione ed espulsione, e la luna per il resto, che è fatto di commissioni territoriali che ci mettono anche un anno a evadere una pratica di richiesta d'asilo, e questo fa sì che diventino sempre di più i migranti da accogliere sul territorio, scatenando gli appetiti di alcune cooperative e associazioni che hanno fatto di questa accoglienza un vero e proprio business. Ma questa è un'altra storia e ve la racconteremo un'altra volta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.